Mi piace questo progetto da Inartra Radio de Roma, si dice così, dice così. Gaspo continua a raccomandarci con gli artisti e noi siamo qui come due ebbedi a farci le foto e a farci le riprese, veramente come due cretini. Cretini, cretini. Aspetti, c'è un collegamento da Londra, Inartra Radio Londra. Secondo me siamo proprio due cretini. Yes, Inartra Radio Roma. Ma in effetti, adesso Mr. Gas sta intervistando i Just 22. In questa giungla di là, Inartra Radio Roma, emerge. Speaking Just 22. Oh, it's Italian band. Five. Loro sono i Just 22. Sta per partire l'intervista, noi non siamo i microfoni. Prego. Ma quanti anni c'hanno per te Just 22? Pare Just 22 per me c'hanno Just 22 year. Inartra Radio Roma. Sono appena 22 anni. Ah sì, for me yeah. Io glielo chiederei. But for me it's not true. Mr. Gaspo is looking for Mike. They are not very 22, but they are 25, 28, 29, 23, 21, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Perché Just 22? Allora, il nome in origine era Catch 22. Il problema è che Catch 22 già esisteva, esiste tuttora come nome di massa, quindi sono già gruppi famosi che si chiamano Catch 22. Abbiamo deciso allora di lasciare il 22. Abbiamo quindi abolito il Catch, lasciato 22, quindi abbiamo in finale solo 22, Just 22. Qual è il genere di musica che ci presentate? Noi presentiamo un punk rock veloce e diretto, uno di quelli potenti e orecchiabili da ogni genere di persona, anche da chi ascolta musica classica. Nascete come gruppo di amici o vi siete cercati per formare una band? Sai, a Roma siamo in tanti, come nascete? Cioè, la gente poi è curiosa di sapere un po' ste cose, no? Guarda, ti spiego, noi siamo un mix. Allora, praticamente nasce sicuramente tutto per amicizia. Io e Bassista siamo fratelli. Poi l'altro chitarrista, Andrea, è mio grandissimo amico. E mentre il cantante, invece l'abbiamo trovato su internet. Quindi è stato un mix. È un mix di tutto, insomma. Famiglia, amicizia e fare quindi, musica seriamente, insomma. E quindi sul palco che cosa cercate di portare? Più l'amicizia o un discorso musicale? Guarda, sicuramente tutto è nato dall'amicizia, però ovviamente si tende a fare una cosa seria, nel senso a fare lo show. Quindi nasce tutto per amicizia, quindi lo facciamo con gioia, però cerchiamo di farlo anche seriamente, con maturità, cioè professionalmente, insomma. Ovviamente tutto parte dal divertimento, cioè fare musica per noi è divertimento, quindi lo scriviamo nelle canzoni, nel live, però cerchiamo di essere anche professionali, ovviamente. Quando voi componete un pezzo, quindi un brano, e poi lo arrangiate, quindi mettete il frutto di ogni componente della band, a che cosa volete arrivare? Cioè, quando un pezzo è terminato, che cosa volete dire? Allora, innanzitutto i pezzi nascono da cinque menti diverse, cinque menti che hanno passati diversi e esperienze diverse. Io personalmente vengo dall'hard rock, quindi insomma sono abbastanza duro sia nella voce sia nello scrivere, però poi quando mettiamo insieme tutte queste idee miriamo a fare un prodotto che possa arrivare alla gente, che possa prendere il maggior il maggior numero di persone, che possa emozionare il maggior numero di persone. Quali sono le vostre emozioni quando suonate e terminate un pezzo? Guarda, quando sono sul palco, io poi mi rivedo sempre nei video perché non mi ricordo nulla di cosa faccio sul palco, perché è talmente tanta l'adrenalina che proprio mi viene tutto naturale e la gioia mi fa perdere la cognizione di quello che faccio. Ti senti in armonia quando suoni con loro o a volte come bassista devi dirigerli e metterli riga? Ma guarda, l'armonia si ha se all'interno del gruppo c'è armonia, quindi poi uno riesce a mettere a servizio quello che fa per il gruppo, quindi diciamo mette da parte il proprio egoismo, la propria tecnica a favore insomma di quella che è la riuscita dell'amalgamazione musicale totale. Certo, suonare il basso può essere certe volte frustrante perché magari bisogna tenere un ritmo per tutto il tempo della canzone e non fa cose particolari come potrebbe essere un solo di chitarra, però alla fine se sbagli il tempo nessuno riesce a andare bene. Infatti è importantissimo il ruolo del ritmo insieme alla batteria, trovare la sintonia tra la batteria e il basso per cercare di fare un pezzo semplice però che funzioni, insomma. Cioè la base del ritmo è la cosa più importante, insomma. E da quando suonate insieme voi? Ma guarda, il gruppo storico suona insieme da 10 anni. Io e mio fratello e Andrea, che è l'altro chitarrista, suoniamo insieme da tanto, tanto, tanto, tanto tempo. Stesso maestro di chitarra, stesso maestro del basso, insomma. È proprio tanto tempo che suoniamo insieme, c'è un'amicizia che va al di là del gruppo. Se dovessi porre una critica a tutta la band e poi a te, un miglioramento, insomma, ognuno di noi sa quali sono i propri difetti, dove punteresti? Guarda, io penso che migliorare si possa sempre migliorare in qualsiasi aspetto. Io sono durante le prove, poi penso che anche loro te lo possano confermare, sono uno abbastanza puntiglioso, che gli piace fare le cose fatte bene, no? Quindi dal semplice provare magari col batterista, col click, sia su due note da solo, sia su una melodia della voce, un coro, una cosa, è un riff del basso, insomma. Qual è la strada che potresti consigliare a una band emergente? Cioè, uno che si affaccia al panorama musicale oggi, per aiutarlo. Qual è la strada per aiutarlo, no? Che gli indicheresti? Che chi ha voglia di fare musica continui a farla. Chi ha voglia di fare musica la faccia, non si faccia intimorire dai primi ostacoli che incontra, da magari qualche persona che dopo che tu gli fai sentire la tua canzone ti dici no, magari non mi piace e magari ti lasciano scoraggiare, no? Invece no, invece chi ha voglia di fare musica continua a farla. La gavetta è lunga, chi ha la musica nel sangue, chi vuole fare musica o prima o tardi esce. Non è facile, non è detto che tutti ci riescano, però se uno non ci prova non potrà dire magari almeno ci ha provato. L'importante è provarci fino in fondo. Questa è un'altra radio. L'importante è provarci fino in fondo. L'importante è provarci fino in fondo. L'importante è provarci fino in fondo. Questa è un'altra radio. L'importante è provarci fino in fondo. L'importante è provarci fino in fondo. L'importante è provarci fino in fondo.